Vi prego, in ordine per il corteo dell'incoronazione di Sua Maestà, gridò Giuseppe. Anche se si mette con le gambe per aria, io non le reggo la coda, belò in fretta Elisa Bacciocchi. De Pro si diresse verso di noi. Le 18 marescialle purtroppo sono 17, constatò pensieroso. Non sembrò un'osservazione molto spiritosa. Perché la signora marescialla Murat, come sorella dell'imperatore, avrà da reggere lo strascico. Non ci pensa nemmeno per sogno, esclamò Carolina dall'altra parte della stanza. Ora, non so come queste 17 signore potranno mettersi due a due, almanaccava De Pro. Montel, avete un'idea di come 17 signore possano formare 9 coppie procedenti davanti a Sua Maestà l'Imperatrice? Montel mosse a passettini verso di noi e corrugò la fronte preoccupatissimo. Posso aiutarvi a risolvere questo problema strategico? Disse qualcuno vicinissimo a noi. Noi ci voltammo e ci sprofondammo in un nuovo inchino di corte. Propongo che il corteo di Sua Maestà l'Imperatrice sia aperto soltanto da 16 mogli di marescialli. Poi verranno, come si è detto, Sécurier con l'anello dell'Imperatrice, Murat con la sua corona e ultima una delle marescialle con, ecco, con un cuscino sul quale sarà un fazzoletto di pizzo dell'Imperatrice. Farà un effetto poetico. Geniale, maestà! Sussurrò De Pro rapito e si piegò in due con una riverenza profonda. Accanto a lui Montel si curvò fino a terra. E questa signora col fazzoletto di pizzo? Napoleone fece una piccola pausa e fece scorrere apparentemente meditabondo il suo sguardo da Madame Berthier a Laura Junot, da Laura Junot alla brutta Madame Lefebvre. Ma io già conoscevo la sua risoluzione. Strinsi le labbra e gli lanciai un'occhiata. Volevo essere una delle 16, la marescialla Bernadotte, né più né meno. Non volevo avere una condizione speciale, non volevo. Noi preghiamo Madame Giambattista Bernadotte di assumere questo incarico. Madame Bernadotte sarà incantevole, in celeste, non è vero? Il celeste non mi sta bene, saltai su io e mi rammentai dell'abito di seta celeste che avevo quella volta nel salotto della Tayenne. In celeste, ripeté l'imperatore. Sicuramente ricordava anche lui quel mio abito disgraziato e si allontanò. Quando fu presso il gruppo delle sue sorelle, Paulette aperse la bocca e disse: Sire, noi non vogliamo. Madame, voi trascendete. Le parole di Napoleone parvero uno schiocco di frusta, perché nessuno può rivolgere la parola all'imperatore se questi non lo ha interrogato. Poi Napoleone si rivolse a Giuseppe. Altri dissapori? Le ragazze non vogliono reggere lo strascico dell'imperatrice, deplorò Giuseppe e con la mano si ravviò i capelli madidi di sudore. E perché? Le signore Bacciocchi e Murat e la principessa Borghese dicono: allora reggeranno lo strascico le sole 2 altezze imperiali, le principesse Giuseppe e Luigi Bonaparte, sentenziò Napoleone. Lo strascico è troppo pesante per 2 sole, disse Giuseppina. Raccolse i suoi lenzuoli e si accostò a Napoleone. Se non abbiamo gli stessi diritti di Giulia e di Ortensia, non dobbiamo avere gli stessi doveri, scappò detto a Elisa. Sta zitta! L'aggredì Napoleone. Poi, rivolta a Paulette, per la quale ha un debole, domandò: Dunque, si può sapere che cosa volete? Abbiamo lo stesso diritto al rango di principesse imperiali come queste due. Paulette accennò col mento a Giulia e ad Ortensia. Napoleone inarcò le sopracciglia. Sarebbe così se io avessi ereditato proprio adesso la corona del nostro comune signor padre e fossi sul punto di defraudare le mie sorelle nella divisione dell'eredità. I miei fratelli e le mie sorelle dimenticano che ogni segno d'onore altro non è che una prova di benevolenza da parte mia e finora anche una prova di benevolenza niente affatto meritata, non è vero? Nel silenzio che seguì a queste parole risuonò dolce la voce di Giuseppina, come una lieve e delicata melodia. Sire, io vi prego che nella vostra bontà innalziate le vostre signore sorelle al rango di altezze imperiali. Cerca delle alleate, mi passò per la mente, ha paura. Forse è vero quel che si bucina in giro, forse lui pensa davvero al divorzio. Napoleone scoppiò a ridere. La scena sembrava divertirlo moltissimo e allora capimmo che fino a quel momento non aveva fatto altro che scherzare. Benissimo, Se promettete di comportarvi a dovere, vi nominerò. Sire, gridarono Elisa e Carolina, lietamente sorprese. Napoleone, grazie tanto, scappò fuori a dire Paulette. Vorrei vedere la prova del corteo di Sua Maestà l'Imperatrice. Vogliate incominciare una buona volta? Disse Napoleone, volgendosi a Despreaux. Un corale solenne venne strimpellato su di un pianoforte che doveva fare le veci dell'organo. Poi Despreaux dispose 16 mogli di marescialli in 8 coppie e Montel insegnò loro come dovessero camminare con grazia e insieme con solennità. Ciò sembrò subito impossibile alle 16 dame, poiché Napoleone, con un volto impassibile, non cessava di guardare fisso i loro piedi. Inciampavano mortalmente confuse nella sala e Paulette si morse una mano per frenare un accesso di risa convulso. Da ultimo vennero chiamati Sécurier e Murat. Tutti e due si inserirono nella marcia del corteo, reggendo con solennità sulle palme aperte un cuscino dove all'incoronazione avrebbero dovuto posare le insegne dell'imperatrice. Dopo di loro dovetti incedere io sola, ugualmente armata di un cuscino da sofà. Alfine avanzò Giuseppina e i suoi lenzuoli striscianti furono retti, senza più obiezioni, dalle principesse imperiali di fresca nomina e da Giulia e Ortensia. Così, ordinate in corteo, percorremmo 4 volte in su e in giù il salone. Tutto si fermò soltanto quando Napoleone si dispose ad uscire. Naturalmente ci sprofondammo nuovamente in inchini di corte, ma Giuseppe si precipitò come un forsennato dietro suo fratello. Sire, vi supplico, sire. Non ho proprio più tempo, disse Napoleone impaziente. Si tratta delle donzelle illibate, disse Giuseppe, fece cenno a Despreaux di avvicinarsi. Despreaux si mise a fianco a Giuseppe e ripeté: Le donzelle illibate sono un grosso problema. Non riusciamo a trovarne. Napoleone si morse le labbra per non ridere. A quale scopo vi servono le donzelle illibate, signori? Si informò. Vostra Maestà ha forse dimenticato, nella cronaca del cerimoniale per le incoronazioni a Reims, nel Medioevo, al quale dobbiamo attenerci, sta scritto che dopo l'unzione di Sua Maestà devono accostarsi all'altare 12 vergini illibate, ciascuna con 2 candele in mano. Abbiamo già pensato ad una cugina del maresciallo Berthier e a una delle mie zie materne, balbettò Despreaux, ma le due signore sono già. Sono sì libate, ma già sulla quarantina, tuonò dal fondo la voce di Murat. Murat, l'ufficiale di cavalleria, aveva dimenticato la sua aulica dignità. Ho ripetutamente manifestato il desiderio di far partecipare anche l'antica nobiltà francese alla solenne cerimonia dell'incoronazione, che costituisce un evento proprio di tutto il popolo francese. Sono convinto, signori miei, che negli ambienti del Faubourg Saint-Germain riuscirete a trovare alcune giovani fanciulle adatte allo scopo. Dopo di ciò ci inchinammo di nuovo poiché Napoleone uscì definitivamente dalla sala. Vennero poi serviti dei rinfreschi e Giuseppina, per mezzo di una delle sue dame di corte, mi pregò di recarmi al suo sofà. Voleva dimostrarmi di essere lieta della distinzione che mi era toccata. Ora, ella sedeva tra me e Giulia e beveva, a sorsi frettolosi, un bicchiere di champagne. Il suo viso delicato sembrava essersi negli ultimi mesi ancora rimpicciolito. Sotto il belletto argenteo i suoi occhi parevano esageratamente grandi e il meraviglioso strato di smalto della sua truccatura aveva subito, durante quel lungo pomeriggio, molte piccole incrinature. 2 linee sottili, come un capello, correvano tra le sue pinne nasali e gli angoli della bocca e si approfondivano nel suo sorriso forzato. Ma i riccioli infantili acconciati all'insù le davano come sempre un'aria di seducente giovinezza. Leroy non sarà in grado di consegnarmi entro 2 giorni un abito celeste, dissi io. Giuseppina, invece, nella sua prostrazione fisica, già nella mattinata ella aveva provato per ore intere le vesti per l'incoronazione, dimenticò che ormai, e da molto tempo, più non è lecito ricordare il proprio passato, e disse: Paolo Barrà mi ha regalato una volta degli orecchini di zaffiro. Se li trovo ve li presterò volentieri per la vostra toilette. Madame, voi siete troppo gentile, ma credo. Non potei dire altro perché fummo interrotte. Giuseppe, con le labbra tremanti per l'agitazione, stava davanti a noi. Giuseppina alzò gli occhi. Che cosa è accaduto ancora? Sua Maestà prega Vostra Maestà di recarsi subito nel suo gabinetto, annunciò. Giuseppina inarcò le sottili sopracciglia. Altre difficoltà relative all'incoronazione, caro cognato? Giuseppe non poté nascondere oltre la sua gioia maligna e si chinò verso di lei. Il Papa ha fatto sapere proprio ora che rifiuta di incoronare Vostra Maestà. La boccuccia imbellettata si atteggiò a un sorriso beffardo. Come motiva il Santo Padre il suo rifiuto? Giuseppe si guardò in giro con affettata discrezione. Parlate pure. All'infuori della principessa Giulia e di Madame Bernadotte, qui nessuno ci sente e le due signore fanno parte della famiglia, non è vero? Giuseppe si schiacciò il mento nella gola per ottenere una pappagorgia imponente. Il Papa è venuto a sapere che a suo tempo Vostra Maestà e Sua Maestà non hanno contratto il matrimonio religioso. E ha dichiarato, perdonate, madame, le parole sono del Santo Padre, di non poter incoronare la concubina dell'imperatore dei francesi. Oh, e come ha potuto sapere proprio ora il Santo Padre che Bonaparte ed io siamo sposati soltanto col rito civile? Domandò Giuseppina tranquilla. È quello che dobbiamo ancora scoprire, confessò Giuseppe. Giuseppina contemplò meditabonda il bicchiere vuoto che teneva in mano. E che cosa pensa Sua Maestà di rispondere al Santo Padre? Sua Maestà naturalmente tratterà col Santo Padre al riguardo. C'è una soluzione molto semplice, sorrise Giuseppina e si alzò in piedi. Ne parlerò subito con l'imperatore. E mentre già si avviava, faremo il matrimonio religioso e tutto sarà in regola. Mentre Giuseppe cacciava il bicchiere vuoto in mano al lacchè più vicino e correva dietro a Giuseppina per partecipare possibilmente al colloquio, Giulia disse pensierosa: Credo che sia stata lei stessa a richiamare su questo l'attenzione del Papa. Eh sì, altrimenti si sarebbe sinceramente meravigliata, riconobbi io. Certo, mi fa pena, ha un grande timore del divorzio e sarebbe una cattivazione se lui all'improvviso la ripudiasse solo perché non può più avere dei figli, non lo credi anche tu? Io mi strinsi nelle spalle e dopo un matrimonio religioso non potrà più divorziare molto facilmente da lei, non è vero? Giuseppina conta su questo. Sì, conta su questo. Inoltre lui l'ama, a modo suo si intende, ma l'ama e non può abbandonarla senz'altro. No? Dissi io, non può? Oh, credi a me, Napoleone lo può. Per la sala passò un fruscio di vesti. Tutti si inchinarono di nuovo profondamente. L'imperatrice era ritornata. Mentre passava Giuseppina, prese un bicchiere di champagne dal vassoio di un lacchè e gridò a Despreaux: Possiamo provare ancora una volta il mio corteo? E poi si diresse verso di noi. Lo zio Fesch ci sposerà questa notte in tutta segretezza nella cappella di palazzo, disse, e beve avidamente due sorsi di vino. Non è una cosa buffa, dopo quasi 9 anni di matrimonio. Ebbene, signora marescialla, avete riflettuto? Devo prestarvi i miei zaffiri? Mentre tornavo a casa in carrozza, decisi di non lasciarmi imporre da Napoleone l'abito celeste. Domani Leroy consegnerà la mia toilette rosa pallido. Tutte le marescialle devono comparire in abito rosa pallido e in rosa pallido io pure porterò il fazzoletto di Giuseppina attraverso Notre-Dame. Giambattista mi aspettava già nella stanza da pranzo e sembrava un leone affamato, o almeno era di così cattivo umore come io mi immagino debba essere un leone affamato. Che cosa hai fatto fino adesso alle Tuilerie? Prima sono stata a sentire i Bonaparte che si bisticciavano e poi ho preso parte alla prova. A me è stato assegnato un compito particolare. Ah, non comparirò ballonzolando con le altre marescialle, ma me ne andrò tutta sola dietro a Murat e porterò su un cuscino un fazzoletto di Giuseppina. Che cosa ne dici di questa particolare distinzione? Giambattista scattò. Ma io non voglio che tu abbia una parte speciale. Giuseppe e quella scimmia di Despreaux hanno escogitato questo perché tu sei la sorella di Giulia e io te lo proibisco, capisci? Io sospirai. Non servirà niente, Giuseppe e Despreaux non c'entrano affatto. È l'imperatore che vuole così. Non avrei mai creduto che Giambattista potesse stizzirsi tanto per una cosa simile. La sua voce divenne subito rauca. Che cosa dici? L'imperatore vuole così, io non ci posso fare nulla. Ed io non tollero. Mia moglie non deve esibirsi in faccia a tutti. Ora Giambattista ruggiva al punto che i bicchieri tintinnavano sulla tovaglia apparecchiata. Non riuscivo a capire la ragione della sua collera. Perché ti arrabbi tanto? Oh, sarai mostrata a dito da tutti, la fidanzata, diranno. Madame Giambattista Bernadotte, il grande amore giovanile dell'imperatore, che lui non sa dimenticare. La sua piccola Eugenia, che vuole distinguere nel giorno della sua incoronazione. La sua piccola Eugenia per sempre. E io diventerò lo zimbello di tutta Parigi, capisci? Smarrita, io guardavo Giambattista. Nessuno come me sa come lo angoscino i suoi rapporti tesi con Napoleone e come egli sia sempre tormentato dal pensiero d'aver tradito gli ideali della sua giovinezza e come egli desideri ardentemente che sia accolta la sua richiesta di un comando indipendente il più lontano possibile da Parigi. E Napoleone lo fa aspettare e aspettare. Ma che questo tormento dell'attesa potesse determinare una scena di gelosia, questo proprio non l'avevo preveduto. Mi avvicinai a lui e gli posai le mani sul petto. Giambattista, non è il caso di arrabbiarsi così per un capriccio di Napoleone. Ma lui respinse le mie mani. Tu sai benissimo come sono andate le cose, gemette. Tu lo sai molto bene. La gente deve credere che lui conferisce una particolare distinzione alla sua piccola fidanzata di un tempo. Ma io dico che lui, questo un tempo, lo ha dimenticato da un pezzo. Te lo dico come uomo. Solo il presente lo interessa. È innamorato di te e ti vuole far contenta perché tu. Giambattista! Si passò la mano sulla fronte. Perdonami, tu proprio non ci puoi fare nulla, mormorò. In quel momento comparve Fernando e posò la zuppiera sulla tavola. Ci sedemmo in silenzio, l'uno di fronte all'altra. La mano di Giambattista, mentre si portava il cucchiaio alla bocca, tremava. Non parteciperò in nessun modo alla cerimonia della incoronazione, ma mi metterò a letto e sarò ammalata, dissi io. Giambattista non rispose. Dopo cena uscì di casa. Ora, mentre seggo al suo tavolo e scrivo, cerco di rendermi conto se Napoleone sia di nuovo innamorato di me. In quella interminabile notte nel suo studio, prima che fucilassero il duca d'Enghien, lui veramente mi parlò con la voce di allora. Toglietevi il cappello, madame. E poco dopo, Eugenia, piccola Eugenia. Mademoiselle Georges è stata rimandata. Credo che quella notte si sia ricordato della siepe del nostro giardino di Marsiglia, di quel prato addormentato e delle stelle che erano così vicine. Com'è strano che il piccolo Bonaparte della siepe stia per essere incoronato imperatore dei francesi tra 2 giorni. E com'è incredibile che vi sia stato un tempo della mia vita nella quale io non ero del mio Bernadotte. Parigi, la sera dopo l'incoronazione di Napoleone, 2 dicembre 1804. È stata solenne e qua e là anche buffa l'incoronazione del mio ex fidanzato ad imperatore dei francesi. Quando Napoleone, con in capo la pesante corona d'oro, sedette sul trono, i nostri occhi ad un tratto si incontrarono. Io stetti quasi ininterrottamente in piedi dietro l'imperatrice, presso l'altare, reggendo un cuscino di velluto con sopra un fazzoletto di trina. Le cose sono andate assai diversamente da come avevo stabilito. Giambattista effettivamente comunicò ieri l'altro al maestro di cerimonie che con mio immenso disappunto ero costretta da una forte febbre e da una grave infreddatura a non prendere parte all'incoronazione. De Pro non riusciva a darsene pace perché le altre marescialle si sarebbero alzate anche dal letto di morte pur di comparire a Notre-Dame. Ma davvero non potevo intervenire. Madame la marescialla coprirebbe con i suoi sternuti il suono dell'organo, gli confidò Giambattista. In realtà rimase a letto tutto il giorno. Verso le 12 arrivò agitatissima Giulia, che era stata informata della mia indisposizione improvvisa e mi diede da bere del latte caldo col miele. Era molto buono e io non mi fidai neppure a confessarle che non ero affatto malata. Ma ieri mattina mi annoiavo troppo a stare a letto, mi vestii, andai nella camera del bambino, dove Oscar ed io facemmo scempio di una guardia nazionale, cioè di un burattino che dovrebbe rappresentare una guardia nazionale. Abbiamo voluto vedere di che cosa avesse imbottita la testa. Accertammo che era piena di segatura di legno. Quando il pavimento fu interamente cosparso di segatura, dovemmo correre qua e là per tutta la stanza per fare un po' di pulizia. Perché noi due, Oscar ed io, abbiamo una gran paura di Maria che di anno in anno va diventando sempre più severa con noi. Ad un tratto la porta si aperse e Fernando annunciò il medico personale di Napoleone. E prima ancora che io potessi dirgli che avrei ricevuto il dottor Corvisart nella mia camera da letto, Fernando, questo animale, aveva già fatto entrare il dottore nella stanza. Il dottor Corvisart posò la sua borsa sulla sella del cavallo d'ondolo e si inchinò cortese dinanzi a me. Sua Maestà mi ha incaricato di informarmi dello stato di salute della signora marescialla. Sono lieto di poter comunicare a Sua Maestà che la signora è guarita. Oh, signor dottore, mi sento ancora tanto debole, dissi io, disperata. Il dottor Corvisart inarcò le sue caratteristiche sopracciglia triangolari che sembrano appiccicate al suo viso pallido. Credo, come medico, di poter assicurare con tranquilla coscienza che la signora è abbastanza forte per poter portare nel corteo dell'incoronazione il fazzoletto di Sua Maestà l'imperatrice. E con un nuovo inchino e senza l'ombra di un sorriso, perché Sua Maestà mi ha informato esattamente di tutto. Io trangugiai. Pensai vagamente che Napoleone potrebbe con un tratto di penna degradare Giambattista. Ah, come siamo in balia di lui, riflettei. Oh, se voi, signor dottore, veramente mi consigliate, mormorai. Il dottor Corvisart si chinò sulla mia mano. Vi consiglio caldamente di intervenire all'incoronazione, signora, disse serio. Poi prese la sua borsa nera e uscì dalla stanza. Nel pomeriggio Leroy mandò il mio abito rosa pallido e le piume bianche di struzzo che dovrei portare nei capelli. Alle 6 sussultai perché dei colpi di cannone fecero tremare i vetri delle finestre. Corsi in cucina e domandai a Fernando che cosa succedesse. Da questo momento fino alla mezzanotte verrà sparata ogni ora una salva. E nello stesso tempo si accendono su tutte le piazze dei fuochi di Bengala. Bisogna condurre Oscar in città per fargli vedere l'illuminazione. Disse Fernando, che lustrava con fervore fanatico la spada dorata di Giambattista. Ma nevica troppo, risposi, e il bambino questa mattina ha tossito. Salii nella stanza del bambino, mi sedetti alla finestra e presi Oscar in grembo. Nella camera era già tutto buio, ma io non accesi alcun lume. Oscar ed io osservammo i fiocchi di neve che danzavano nel bagliore della lanterna davanti alla nostra casa. Vi è una città nella quale ogni inverno la neve rimane per molti mesi, e non solo per un paio di giorni come da noi, e là il cielo sembra un lenzuolo bianco di bucato, dissi. E poi? Domandò Oscar. E poi basta, dissi io. Oh, credevo che mi raccontassi una storia nuova, fece Oscar deluso. Non è una storia, è vero? Dissi. E come si chiama quella città? Volle sapere Oscar. Stoccolma. E dov'è Stoccolma? Lontano, lontano, dove c'è il Polo Nord, credo. Stoccolma è dell'imperatore? Oh no, Oscar, Stoccolma ha il suo re. E come si chiama questo re? Non lo so, caro. Tuonarono di nuovo i cannoni. Oscar ebbe paura e involontariamente premette il viso al mio collo. Non devi spaventarti, sono soltanto colpi di cannone in onore dell'imperatore. Oscar alzò la testa. Non ho affatto paura dei cannoni, mamma. E quando sarò grande diventerò maresciallo di Francia come papà. Io guardavo i fiocchi di neve. Non so perché, ma pensavo ancora a Person. Quei fiocchi mi avevano fatto ricordare la sua faccia cavallina. Chissà che tu non possa diventare invece un buon negoziante di sete come tuo nonno, dissi. Ma io voglio diventare maresciallo, oppure sergente. Papà mi ha detto che lui è stato sergente, e anche Fernando era sergente, si infervorava. Gli era tornata in mente una cosa importante. Fernando mi ha detto che domani potrò andare con lui all'incoronazione. Oh no, Oscar, i bambini non possono essere condotti in chiesa. La mamma e il babbo non hanno avuto i biglietti per te. Ma Fernando si metterà davanti alla porta della chiesa e di là potremo vedere tutta l'incoronazione. Fernando ha detto così. Vedremo l'imperatrice e la zia Giulia e... Respirò forte. L'imperatore con la corona, mamma. Fernando me lo ha promesso. Fa troppo freddo, Oscar. Non puoi star fermo per molte ore davanti a Notre-Dame. E in quella terribile calca un omino come te sarebbe schiacciato. Oh, ti prego, mamma, ti prego. Ti descriverò bene tutto proprio come è stato, Oscar. Due piccole braccia mi serrarono il collo. Io ricevetti un bacio dolcissimo e molto umido. Ti prego, mamma, ti prego, se ti prometto di bere tutto il mio latte la sera. Non va, Oscar, non va proprio. Fa tanto freddo e tu hai di nuovo la tosse. Sii giudizioso, caro. E se oggi bevo tutta la bottiglia di quella brutta medicina per la tosse, mamma, mi lasci andare? In quella città che si chiama Stoccolma, vicino al Polo Nord, c'è un gran lago con dei blocchi di ghiaccio verde. Incominciai per distrarlo, ma Stoccolma non lo interessava più. Voglio vedere l'incoronazione, mamma, ne ho tanta, tanta voglia! Singhiozzava. Quando sarai grande, sentii me stessa dire, quando sarai grande potrai vedere l'incoronazione. Ma l'imperatore si farà incoronare di nuovo? Domandò Oscar scettico. No, questo no, ma andremo a vedere un'altra incoronazione, Oscar. Ci andremo noi due. La mamma te lo promette e sarà un'incoronazione molto più bella di quella di domani, credimi, molto più bella. La signora marescialla non dovrebbe raccontare delle frottole al bambino, tuonò dietro di noi dal buio la voce di Maria. Vieni, Oscar, adesso devi bere il tuo latte e prendere quel buon sciroppo per la tosse che ti ha ordinato lo zio dottore. Maria accese i lumi nella stanza ed io lasciai il mio posto presso la finestra. Ora non potevo più vedere i fiocchi di neve danzanti nell'aria. Più tardi Giambattista salì per augurare ad Oscar la buonanotte. Oscar subito gli palesò tutte le sue pene. Mamma, non vuole che io stia fermo con Fernando davanti alla chiesa per vedere l'imperatore con la corona. Neppure io lo voglio, dichiarò Giambattista. Ma la mamma dice che andremo più tardi, lei ed io, quando sarò grande, a vedere un'altra incoronazione. Ci verrai anche tu, papà? E chi si farà incoronare allora? Domandò Giambattista. Mamma, chi si farà incoronare allora? Domandò Oscar. E poiché davvero non sapevo cosa rispondere, feci una faccia misteriosa. Questo non lo dico, sarà una sorpresa. Buonanotte, caro, e sogna qualche cosa di bello. Giambattista rimboccò con cura la coperta del nostro bambino e spense il lume. Molto più tardi preparai io stessa la cena. Maria, Fernando e la nostra aiutante di cucina erano usciti. In tutti i teatri si davano rappresentazioni gratuite. Ivette, la mia nuova cameriera, era scomparsa già da mezzogiorno. E poiché Giulia mi ha ammonita che la moglie di un maresciallo non può pettinarsi da sola né riattaccare da sé i bottoni ai propri abiti, io ho finito col cedere e mi sono presa in casa questa Ivette, che prima della rivoluzione ha incipriato i capelli di qualche duchessa e naturalmente crede di essere assai più distinta di me. Dopo la cena andammo in cucina. Io lavai i piatti e i bicchieri e il mio maresciallo si legò la cintola al grembiule di Maria e asciugò le stoviglie. Ho sempre aiutato mia madre, osservò, e sorridendo ad un tratto, i nostri bicchieri di cristallo le sarebbero piaciuti. Il suo sorriso scomparve. Giuseppe mi ha detto che il medico personale dell'imperatore è venuto a vederti, disse. Oh, in questa città tutti sanno i fatti del prossimo, sospirai. No. Non tutti, ma l'imperatore sa molte cose di molta gente, è il suo sistema. Sul punto di addormentarmi, udii ancora il tuonare dei cannoni. Probabilmente sarei stata felice anche in una fattoria, nei dintorni di Marsiglia, pensai, in una fattoria con un bel cortile pieno di polli. Ma né Napoleone, imperatore dei francesi, né Bernadotte, maresciallo di Francia, hanno uno spiccato amore per l'allevamento dei polli. Aveva cessato di nevicare, ma faceva più freddo ancora di ieri sera. Potemmo udire, tuttavia, che il popolo di Parigi già si era assiepato. Alle 5 del mattino, davanti a Notre-Dame e lungo il cammino che avrebbero percorso i cocchi dorati dell'imperatrice, dell'imperatore e delle loro famiglie. Giambattista ed io dovevamo trovarci al palazzo dell'arcivescovo, dove si sarebbe formato il corteo dell'incoronazione. Mentre Fernando aiutava Giambattista a indossare l'uniforme di maresciallo, ancora in gran fretta alitava su ciascun bottone dorato e vi ripassava su per l'ultima volta un suo straccetto. Ivette fermava tra i miei capelli le piume di struzzo bianche. Io sedevo al tavolino della mia toeletta, guardavo disgustata nello specchio e trovavo che con quell'acconciatura avevo l'aspetto di un cavallo da circo. Ad ogni momento, dall'altra estremità della stanza, Giambattista gridava: «Sei pronta finalmente, Desirée?» Ma le piume di struzzo non volevano ancora stare ritte a dovere. Improvvisamente Maria spalancò la porta. «Hanno portato Aurora questo per la signora marescialla!» Era un lacchè in livrea della casa imperiale. Yvette ritirò il pacchetto e me lo posò sul tavolino della toeletta. Maria naturalmente non uscì dalla stanza, ma se ne stava incuriosita a guardare il cofanetto di pelle rossa che io svolsi dall'involucro di carta. Giambattista spinse da parte Fernando e si avvicinò alle mie spalle. Alzai gli occhi e nello specchio della toeletta incontrai i suoi. Sicuramente Napoleone ha avuto qualche idea terribile e Giambattista andrà su tutte le furie, pensai. Lascia fare a me, disse alfine Giambattista. Premette sulla serratura e con uno scatto il cofanetto si aperse. Oh! Sospirò Yvette. Brontolò Maria stupefatta. Fernando invece respirò forte. Era apparsa una cassettina d'oro splendente. Il coperchio era fregiato da un'aquila con le ali tese. Smarrita, io fissavo tutto quel luccichio. Apri, apri la cassettina, disse Giambattista. Maldestra, sfruconavo in quell'arnese. Poi afferrai energicamente l'aquila d'oro tra le due ali tese e la sollevai. Il coperchio s'aperse. La cassettina era foderata di velluto rosso e sul velluto scintillavano delle monete d'oro. Mi voltai e guardai Giambattista. Ci capisci qualcosa? Ma non ebbi risposta. Giambattista guardava fissamente, indignato, le monete e il suo viso si era fatto tutto pallido. Sono franchi d'oro, mormorai, e distrattamente presi a togliere dalla cassetta le monete e a deporle sul tavolino, tra la scatola della cipria, le spazzole per i capelli e i gioielli. Qualche cosa, scricchiolò, di tra le monete, trassi fuori un foglio di carta ripiegato. Era di mano di Napoleone, con i suoi caratteri grossi e irti. Per un poco mi danzarono davanti agli occhi, poi diventarono parole. Signora marescialla, voi avete avuto la bontà di prestarmi a Marsiglia i vostri segreti risparmi per rendermi possibile il soggiorno a Parigi. Quel viaggio mi ha portato fortuna. Sento il dovere di saldare in questo giorno il mio debito e di ringraziarvi. N. E in poscritto, PS, erano allora 98 franchi. Sono 98 franchi d'oro, Giambattista. Ma io allora gli ho dato la somma in franchi assegnati? Con grandissimo sollievo mi accertai che Giambattista sorrideva. Avevo risparmiato il denaro delle mie piccole spese per comprare all'imperatore un uniforme decente. La sua divisa di campagna era così misera. Ma poi lui ebbe bisogno del denaro per pagare dei debiti e per tirar fuori dai loro alberghi i marescialli Junot e Marmont, soggiunsi.